Gentlemen, may I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Don Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. I Love Italy su Radio Miami International, Double RMI. Un saluto da parte di Andrea e benvenuti a tutti in questo nuovo spazio in lingua italiana. Spieghiamo un pochino ai nuovi amici e le nuove amiche che cosa state ascoltando. Praticamente I Love Italy è un contenitore, un salotto radiofonico in onda solo sulle onde corte, 15 minuti in lingua italiana, insomma, che potete sentire direttamente nelle vostre radio ad onde corte, ma anche in streaming audio direttamente dal sito della doublerami.net. Ora vi voglio ricordare che siamo in onda su 7780 kHz, pari a metri 41, 9955 kHz, pari a metri 31. Questa trasmissione è in rotazione, in programmazione su Radio Miami International. Vi dicevo, 15 minuti in lingua italiana, dove se volete potete essere anche voi grandi protagonisti mandandoci una mail al nostro indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete anche interagire con il sottoscritto attraverso il numero degli SMS, più che SMS, per il numero per gli WhatsApp 377-456-3033, 377-456-3033, il numero per i vostri WhatsApp. E ora vi ricordo anche agli amici e alle amiche che adorano scrivere lettere o cartoline come un tempo, l'indirizzo della nostra radio, Double RMI, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Bene, in apertura, dopo avervi ricordato un po' il tutto, passiamo immediatamente ai saluti agli amici e alle amiche che ci hanno ascoltato in questo mese. Salutiamo Cyril McDonald dal Canada, ci scrive per l'appunto dal Canada e mi scrive: ciao Andy Mangiarotti e complimenti, saluti dal Canada, è un vero piacere inviarti il mio rapporto di ricezione del tuo programma ospitato sulla WRMI nella mia, ti ho ascoltato attraverso il mio ricevitore ad onde corte e ti invio immediatamente il rapporto di ricezione. Lui mi segna show I Love Italy in lingua italiana, data 12 ottobre 2020, 23:45 UTC sino alle ore 00 UTC, frequenza 9955 kHz, ricevitore Grundig Satellite 2400 SL, location Nakvik, New Brunswick, Canada, per un simpo 22122, segnale un pochino disturbato, disturbo di fondo e disturbo atmosferico. Grazie a Siri McDonald dal Canada. E ora invece ci spostiamo nella bellissima Colombia. E vai, salutiamo l'amico che ci ha scritto dalla Colombia, Alejandro Perez. Buongiorno, il rapporto di ricezione di Envigado, una piccola città nei pressi di Medellin in Colombia. Lui mi dice che mi ha ascoltato, ha fatto anche lui un rapporto dettagliato e mi dice: saluti da Envigado, città ai pressi di Medellin in Canada. mi ha ascoltato nella banda dei 31 metri, nella frequenza 9955 kHz, attraverso Com Radio CRU1 e nell'antenna locale. Mi ha ascoltato alle 18.50 sino alle 23.50. Grazie a te, Alejandro Perez. Se mi vuoi far avere il tuo indirizzo postale, appena mi è possibile, ti invio una cartolina, una ufficiale di appunto I Love Italy, una cartolina ufficiale di I Love Italy. Grazie veramente a questi amici e a queste amiche, che se volete continuare a scrivere lo potete fare. andrea@mangiarotti.org per rapporti di ricezione, per messaggi, commenti, se volete parlarci anche un po' di voi. Noi siamo qui. Questa è Double Are Mine. Siete all'ascolto di I Love Italy con Andrea Mangiarotti ancora per un pochino. Ed ora parliamo di ricordi. Quanti di voi, insomma, non hanno ricordi di situazioni particolari, un luogo visitato, non so, una giornata trascorsa al mare, in montagna? E sicuramente uno dei ricordi più belli è quando da piccoli magari si andava a scuola e si prendeva il treno, per l'appunto, per andare a scuola e raggiungere la città dove studiavamo. C'è un bellissimo racconto che ho trovato, più che un racconto è un articolo scritto da Giordano Lupi, che scrive per un giornale online Val di Corna, che copre la provincia di Piombino, Livorno e in Toscana, e praticamente Giordano Lupi ricorda la ferrovia. Ma sentite un pochino come ricorda in modo dolce e toccante la ferrovia. Vi vorrei leggere questo articolo che trovate anche sul web, questo suo ricordare la ferrovia, appunto, di Giordano Lupi, Treni e ricordi. La stazione ferroviaria per me rappresenta qualcosa di più che un semplice luogo dal quale partire per poi fare ritorno. Ho vissuto per anni in una casa cantoniera lungo i binari, sono un figlio di ferroviere, mi sono abituato allo sferraiare dei treni come una corsa ordinaria, il rumore dello scambio manuale era un momento di vita quotidiana e il passaggio in bicicletta del manovale, addetto alle manovre, scandiva le ore della giornata. Passavo molto tempo nel giardino di casa cantoniera di via Chiassetto, uno spazio all'aperto che chiamavo giardino, anche se il nome è troppo impegnativo, e praticamente in questo giardino leggevo libri di Pasolini, Moravia, quando faceva bel tempo, ma anche di Pascoli, Joyce, Verlaine, Rimbaud, i miei amori di un tempo. Poi si cresce e si cambia, non si può passare tutta la vita a leggere le stesse cose, ma il ricordo rimane come il profumo di un dolce del passato, la Madeleine. Il mio spazio all'aperto sotto la l'acacia in fiore intrisa di odori e sentori di primavera prevenivano dall'oleandro poco distante dai due banani piantati da mio padre. Era il luogo preferito dove preparare le interrogazioni liceali, ma soprattutto esami universitari, che al liceo ho sempre studiato poco. Non ero un secchione, preferivo leggere romanzi. Ascoltavo musica a sette di Vecchioni, di André, da un vecchio registratore Grundig. Se ero incazzato con il mondo, preferivo Francesco Guccini, Stefano Rosso. Per i momenti di nostalgia, sceglievo invece i Venditti di Gregori. Adesso le musiche a sette non esistono più. Le ho dovuto buttare tutte. Ci sono gli MP3 da scaricare, i video su YouTube e così via. Mi sono adeguato. Che altro fare? Ma la poesia non è la stessa, manca il fascino del possesso, dell'attesa, del discorso desiderato. Il vinile o la cassetta non importa, risparmiavi il denaro che serviva poi per acquistare il tuo oggetto del desiderio. Non divaghiamo, che le disgregazioni sono un mio problema. Parlavamo di stazione ferroviaria. Dalla mia stazione di Piombino, dalla quale partivano accelerati per Piombino Marittima, per Campiglia, una volta al giorno persino un treno per Firenze, che si chiamava la Freccia dell'Elba, una stazione è andata scomparendo nel breve volgere degli anni, un giorno dopo l'altro, come in una vecchia canzone di Luigi Tenco. Insieme al capo stazione che veniva al piano superiore della palazzina, al posto di lavoro, degli operai, alla mensa, alla sala d'aspetto, al deposito bagaglio, alle docce e ai bagni pubblici, tutto è scomparso. Ricordo le levatacce alle 5 del mattino per prendere un treno diretto a Pisa ogni lunedì per frequentare l'università che in fondo non mi è servita quasi a nulla. Se non a trovare un lavoro, basta che sia un lavoro che garantisce la sussistenza ma non è capace di realizzare i sogni. Poi però mica è detto che i sogni non li abbia realizzati, il mio problema è averne troppi, volere sempre qualcosa in più di quello che si ottiene. E in fin dei conti scrivo un sacco di libri sulle cose che mi interessano, il lavoro basta che sia, mi lascia il tempo di occuparmi della vita, delle cose che amo, di vedere buon cinema, di leggere, scrivere, pubblicare autori, andare in giro per l'Italia, per fiere del libro, per presentare romanzi. Sogni, sogni sì, che svaniscono e che ci stemperano come un treno che sferraglia sui binari alle 6 del mattino, carico di ragazzi che vanno incontro al futuro. E molti di loro non ci sono più, non cercano di realizzare sogni per colpa di un destino assurdo. Tu che suonavi il piano, per esempio, e studiavi lettere moderne, come avrei voluto fare io, tu che mi raccontavi il futuro, che non ho mai vissuto, come se fosse stato un notturno di Chopin, tu che sei finito nel binario morto della tua vita, non ci sei più, come non ci sono altri, ma per il solo fatto che ti ricordo, non sei assente, aleggia la tua presenza sulla mia vita, torna come prepotenza fuori dai fogli dei vecchi compiti in classe, esplodi in un sorriso sincero. Pascoli avrebbe detto meglio, amico mio, lo sappiamo entrambi, ma spero che ti contenterai del mio ricordo, di una mattina del treno Piombino Pisa, l'ultima mattina che ti ho visto, prima di non avere più il coraggio di vederti, l'ultimo scambio di sogni prima che il treno prendesse una curva in attesa e terminasse la corsa in un binario senza fondo. La nostra stazione è ancora lì, di tanto in tanto ci passo davanti con la mia valigetta del lavoro, basta che sia, mi rendo conto che non c'è più la venditrice dei giornali, la vecchietta della mia infanzia che mi metteva da parte l'Uomo Ragno e Fantastici 4, non c'è più nemmeno il vecchio bar frequentato da giocatori di carte e bevitori di aperitivi in ogni ora del giorno, restano pochi taxi che si fermano per ripartire alla volta del porto di Campiglia, autobus che fanno scendere passeggeri. Il treno è un ricordo del passato, una fantasia di ragazzini in attesa dalle littorine marloni nelle fredde mattinate d'inverno, un fantasma di vecchi incontri, quasi soffia il maestrale. Non si fanno neppure i biglietti alla stazione, perché è chiusa. Ramo secco della memoria, interludio tra il silenzio spettrale e un tempo che non tornerà mai più. Tiro dritto verso il mio lavoro, non mi fermo neppure a osservare chi viene e chi va. Evito di cadere nei trabocchetti del ricordo, preferisco pensare che è tutto come prima. Magari domani prendo il treno per Pisa e trovo ancora il mio amico che mi racconta i suoi sogni, partendo proprio dal punto in cui si sono interrotti. Questo era un bellissimo racconto di Giordano Lupi che trovate online, basta cercare Treni e Ricordi sul sito valdicorna.it. E leggerete questo racconto che come me vi emozionerà tanto, vi darà veramente delle emozioni incredibili e vi farà ricordare un po' anche la vostra gioventù. Grazie per l'ascolto, I Love Italy termina qua, addio piacendo, ci risentiamo prossimamente sempre qua su Double RMI. Ciao a tutti, Andrea Mangiarotti, un abbraccio, bye, ciao da Andy, ciao, grazie, ciao.